musica, musica, musica, io ce l'ho dentro, accende il tuo sentimento spento. Musica, musica, musica, la sto vivendo, tira fuori tutto quello che hai dentro. Musica, musica, musica, io sto cantando tutto quello che mi sento dentro. Musica, musica, musica, io sto vivendo, brucia piano, brucia come un fuoco lento. Yo, brucia, brucia piano, brucia come un fuoco lento. Quando la tiro fuori io mi sento più contento. Brucia, brucia piano, brucia in ogni momento. La mia musica ci dà vita, ci dà forza e movimento. Questa è la mia musica, la suono tutto il giorno, per riuscire a sopportare tutto quello che ho attorno. La mia libertà non avrei mai potuto dartela. Sono come sono e non cambio di una virgola. Musica, musica, musica, io ce l'ho dentro, accende il tuo sentimento spento. Musica, musica, musica, la sto vivendo, tira fuori tutto quello che hai dentro. Musica, musica, musica, io sto cantando tutto quello che mi sento dentro. Musica, musica, musica, io sto vivendo, brucia piano, brucia come un fuoco lento. Ciao. E adesso dammi tutto, tutto quello che voglio, tutto quello che mi appartiene, tutto quello che è mio, tutto quello che ho vinto, tutto quello che ho perso, tanto ormai non ci ricasco. This is my music e guai a chi la tocca, gli spacco la testa e gli chiudo la bocca. Sei stato, sei e sarai sempre una comparsa. Se parli di me, prima lavati la bocca, lo sai, se i tuoi valori vengono uccisi, allora fai come me e vivi meno easy. Ascolto la mia musica e sembra che sto sognando. Quando scendo in strada io cerco di cambiare il mondo. Musica, musica, musica, io ce l'ho dentro, accende il tuo sentimento spento. Musica, musica, musica, la sto vivendo, tira fuori tutto quello che hai dentro. Musica, musica, musica, io sto cantando tutto quello che mi sento dentro. Musica, musica, musica, io sto vivendo, brucia piano, brucia come un fuoco lento. Musica, musica, io ce l'ho dentro, accende il tuo sentimento spento. Musica, musica, musica, la sto vivendo, tira fuori tutto quello che hai dentro. Musica, musica, musica, io sto cantando tutto quello che mi sento dentro. Musica, musica, musica, io sto vivendo, brucia piano, brucia come un fuoco lento. Qualche volta la vecchiaia si trasforma in nostalgia, ma il calore che hai dentro non se ne può andare via. Tutti i volti che ho già visto, la tristezza a casa mia, e la musica è più forte se tu dentro hai nostalgia. Musica, musica, musica, io ce l'ho dentro, accende il tuo sentimento spento. Musica, musica, musica, la sto vivendo, tira fuori tutto quello che hai dentro. Musica, musica, musica, io sto cantando tutto quello che mi sento dentro. Musica, musica, musica, io sto vivendo, brucia piano, brucia come un fuoco lento. Musica, musica, questa è la mia musica, lucida, acida, sto sfornando. Musica, musica, musica, questa è la mia musica, lucida, acida, sto sfornando musica, yeah.